Ehi piccola, io, te, a casa, la radio, subito. Ma no, ma dai, ma perché? Ma portami a vedere un film, a vedere uno spettacolo, portami al mare. Non hai capito, oggi è martedì e sono quasi le 4, si fa come dico io. Mi devo liberare di te. E pensare che eri piccola, ma piccola. Tanto piccola, così. Ah, piccola, che hai capito? C'era Reggio Nair. Ops, scusa. Mais de cris ça ils s'entourent. Et parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule, la rage. Car c'est le pire que nous frôlons, la rage. Car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon, la rage. Car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour. Tant de grands savoirs ancestres, la rage. Trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité, la rage. Car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges, la rage. Car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux, la rage. Parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe. Quattro, otto minuti, 43 secondi di questo martedì post Natale, proprio dopo le feste. Oggi è 27 di dicembre, ormai è anche quasi finito l'anno, quindi festeggeremo anche quello. Vi ricordo che state su sugli 87.9 ascoltando Rage on Air, la trasmissione degli studenti media auto-organizzati. Vi ricordo che se volete chiamarci c'è il numero 0649 1750. Se volete scriverci una mail c'è ondarossa@ondarossa.info. Se invece volete più semplicemente donare qualche soldo, perché avete a cuore questa radio che vi fa passare il tempo in macchina o in ufficio, basta devolvere qualche soldino al conto corrente postale 6180 4001. E intanto finitevi la Rage di Kenny Arcana. Già finita, torniamo subito. Allora, quest'oggi parleremo parleremo un po' della situazione della scuola con questo nuovo ministro e con questo nuovo governo, ma sarà anche una puntata speciale perché abbiamo adottato un nuovo format, diciamo. Abbiamo deciso di fare una puntata tematica su Rino Gaetano e quindi appunto parleremo al più presto anche di Rino Gaetano. E parleremo appunto di Rino Gaetano in quanto vogliamo celebrarlo come artista. Adesso intanto ascoltatevi Mio fratello è figlio unico del suddetto artista. Mio fratello è figlio unico perché non ha mai trovato il coraggio d'operarsi al fegato e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale. figlio unico sfruttato, represso, calpestato, odiato. E ti amo Mario, mio fratello è figlio unico deriso, frustrato, picchiato, derubato. E ti amo Mario, mio fratello è figlio unico di Madrid, declassato, sottomesso, disgregato. Finita questa bellissima canzone di Rino Gaetano, torniamo a parlare, come vi avevo già anticipato, di varie cose. In questa puntata di Un Post Feste, già mi immagino i nostri ascoltatori, la metà sta facendo jogging ascoltandoci nel parco per perdere già quei chiletti che col panettone lievitano nel nostro stomaco. Un'altra buona metà... Un'altra buona metà invece magari sta semplicemente lavorando, perché ovviamente dopo le feste tocca lavorare e bisogna stare davanti al computer, quindi ci ascoltate via streaming. Ora invece, come avevo promesso, parliamo un po' di queste proposte ministeriali. Ad esempio abbiamo letto ultimamente dei tablet a scuola, quindi appunto abbiamo visto che il ministro ha promesso e ha minacciato forse di portare il tablet a scuola. Lo farà? Lo farà? Spenderà tutti questi soldi per la scuola costano, pubblica? Forse farà collare i soldi alle famiglie come al solito, oppure forse farà spendere alla scuola pubblica. Noi ne parleremo dei pro e dei contro. Abbiamo un ragazzo che parla dei pro che ha riso, e un ragazzo che parla dei contro, che sarebbe lui. Esatto. Ok, e quindi appunto intanto, mentre aspettiamo di parlare un po' di questi tablet, che sembrano una cosa un po' troppo futuristica, sì, per sembra scuola. Molto a 3000. Non va bene. Non è per intanto, la nostra scuola no. pubblica, non è per la scuola sta, pubblica, non stanno... c'ha neanche la carta igienica. Esatto, soprattutto per le famiglie che spendono già tanti soldi, figura di comprare un tablet che costa 600 euro. Vabbè, intanto però mettiamo un po' di frizzantino a questa puntata e mettiamo un'altra canzone di Rino Gaetano. Una canzone che si intitola Ai Maria. Quando tramonta il sole, una canzone d'amore, da Bahia Salvador, oh Maria, per te canterò. Da quando sei andata via, da quando non ci sei più, da quando la pasta scotta non la mangio più, ai Maria chi mi manca sei tu. La mattina mi alzo tardi e dormo finché mi va, e il caffè me lo porta a letto due bionde in tutù, ai Maria chi mi manca sei tu. La notte vado a ballare per cancellare i sogni miei, da qualche tempo più donne del DJ, ai Maria ma tu non ci sei. E questo sapore strano che è fatto di libertà mi dice che oggi qualcosa è cambiato in me, ai Maria non sei più con me. E quando tramonta il sole, una canzone d'amore, da Bahia Salvador, oh Maria canterò. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, manca un po'. Hey Maria, mi manca il tuo affronto. Il mio caimano nero, piangendo mi confidò che non approvava il progetto del metro. Hey Maria, da te tornerò. L'Himalaya era lontano, l'ascensore lì non c'è, ma il vecchio saggio indiano ha predetto che, ehi Maria, ritorni da me. Senterò ho più soldi in tasca e donne ne ho troppe ormai, sebbene il tuo cane fuori non porto più, ehi Maria, chi mi manca sei tu. E quando tramonta il sole, una canzone d'amore, da Bahia a Salvador, o Maria canterò. Oh oh. La, la, la, la, la. Eccoci tornati subito dopo questa canzone di Rino Gaetano, bellissima e troppo divertente. Quindi adesso, come vi avevamo già detto e promesso, parliamo un po' di questi tablet. Questi cosa, famosi tablet a scuola, questa cosa molto futuristica. Molto strana. Molto strana per la scuola pubblica italiana. Sì, molto particolare. Ma ci sono, certamente ci sono dei pro che può essere la tecnologizzazione, l'informatizzazione di questa scuola. Ma certo, spendere tutti questi soldi alle famiglie non so se potrebbe essere utile. Si abbatte certamente il costo dei libri utilizzando questi tablet, anche se potrebbe darsi agli editori, ci facciamo pagare 30 euro anche un dischetto. Ma potrebbe anche essere una cosa buona, bisogna vedere come va sviluppata, bisogna vedere chi la paga, bisogna vedere come funziona l'editoria. Certamente ci sono sia pro che contro e quindi dobbiamo vedere un po' che cosa succederà a questa scuola, dobbiamo calcolare l'abbattimento e anche il probabile fallimento dei costi dell'editoria, quindi gli editori che a quel punto vendono il libro non più a un prezzo passabile, cioè a un prezzo alto come 30 euro al libro, ma lo vendono a 2, massimo 3 euro giusto per i diritti d'autore, e quindi per loro il ricavato è nullo. Ma il problema è che comunque servirebbe una rivoluzione totale dell'impostazione dello studio, in quanto bisognerebbe acquistare questi tablet da 600 euro l'uno circa e poi distribuirli. Ma non basterebbe questo, bisognerebbe anche fare corsi di informazione e aggiornamento per i professori, cioè, ovviamente la scuola sarebbe un costo abnorme che con i tagli che continuano a fare. Più che altro, appunto, non vedo dove sono i soldi. Il problema è come il ministro Profumo, come gli viene in mente, proprio la prima domanda che sarta un romano, come gli viene in mente di pensare al tablet quando ancora ci cascano i pezzi d'intonaco in testa quando mi piove dentro la classe, questo pensa ai computerini? E certo, l'evoluzione è importante, però io credo che sia ancora più importante assolutamente la sanità dell'edificio e un'istruzione buona. Quindi avere i professori che ci sono sempre, avere la carta igienica e il sapone nei bagni. Esatto, magari niente di fantascientifico come questi tavoli. Magari puntiamo su qualcosa di essenziale e poi arriviamo a questa tecnologizzazione estrema poi, nella scuola. Conoscendo l'Italia molto poi, cioè molto più in là, potremmo pensare alla tecnologizzazione. Vabbè. Perdoniamolo. Guardate, cioè, pure parole difficili, non solo non ci insegnano abbastanza, ma poi ci insegnano anche a pronunciarle le parole. Cioè, ci aggiungono parole al vocabolario inutili. Bene, adesso ascoltiamoci un'altra canzone di Rino Gaetano, sempre in onore, e dopo vi parliamo un po' di quest'artista. Vi presenteremo la canzone di Rino Gaetano, Aida, un inno parallelo e alternativo all'inno di Mameli, che ripercorre 40 anni di storia italiana fra fascismo, lotta partigiana e dominio e controllo della Democrazia Cristiana. Ok, abbiamo un po' di problemi tecnici, Aida non vuole partire, è una canzone un po' birichina, forse non c'è il file, quindi adesso vediamo, magari la rimettiamo da capo e ci riproviamo. Nel frattempo vi possiamo iniziare ad accennare la storia di Rino Gaetano, che ovviamente noi bravi ci siamo preparati il foglietto con le cose. Ma dovete vedere, ma non una delle cose stampate da Wikipedia, proprio una ricerca andrebbe bene anche al mio professore di storia. Beh, allora, sembra che i problemi tecnici sono stati risolti, quindi mi spiace, la storia ve la leggiamo dopo. Adesso, no. Adesso sta ad Aida, Rino Gaetano, vai. Parliamo un po' di questa storia, di questo artista italiano di cui dovremmo andare fieri. Beh, intanto iniziamo col dire che è di origine calabrese, ma già da tenera età si trasferisce a Roma per motivi legati al lavoro dei genitori e a causa di ciò appunto vivrà a Roma per quasi tutta la sua vita, eccetto per i primi anni della sua vita in cui i genitori lo mandano a studiare in provincia di Terni per diciamo per svilupparlo un po' meglio e quindi poi vivrà tutto il resto della sua vita a Roma e da Roma proprio scriverà le sue più belle canzoni. La prossima canzone sarà Gianna, con cui Rino Gaetano arriva terzo dopo Bazar e Oxa durante il Festival di Sanremo nel 78. Sosteneva pesi e illusioni. Gianna, Gianna, Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare. Ecco, tornati subito sugli 87.9, vi ricordo state ascoltando Radio Onda Rossa, in particolare Region Air, la trasmissione degli studenti media auto-organizzati. Vi ricordo che se ci volete chiamare c'è lo 06491750 oppure scrivere a Radio Rossa, Radio Onda Rossa, no, Onda Rossa, @ondarossa.info, scusate, sbaglio sempre, lo dico talmente tante volte non ci faccio mai l'abitudine, oppure scrivete comunque sul nostro Facebook Region Air, ci trovate facilmente, oppure addirittura potete scriverci un'email regionair@ondarossa.info, stavolta l'ho detto bene. E se volete invece devolvere un po' di soldi per aiutare questa radio, c'è il conto corrente postale 610 80 4001.

E ecco concludersi una delle più belle canzoni di Rino Gaetano, Non t'arrà che più, stranamente e purtroppo ancora attuale ai tempi d'oggi. Quindi continuiamo un po' a parlare di questo artista italiano di cui secondo me dobbiamo andare fieri, perché ha scritto bellissime canzoni. Vi ricordo che comunque lui appunto ha partecipato al Festival di Sanremo, anche se non voleva, l'ha costretto la casa discografica, voleva presentarsi con Non t'arrà che più, però poi alla fine l'hanno fatto presentare con una canzone che più aggradava alla casa discografica, in quanto appunto doveva vincere, non era più questione di soldi o di qualsiasi altra cosa, doveva proprio vincere. Adesso, oltre a parlare solo di Rino Gaetano, visto che ormai stiamo facendo una maratona solo su Rino Gaetano, parliamo anche un po' di quello che succede in Italia. Stiamo aprendo i giornali della rassegna stampa di stamattina e su tutti i giornali almeno una volta viene nominato Giorgio Bocca, che è morto da poco. Comunque va fatto un saluto, quantomeno un ricordo di questo pensatore italiano, e noi lo nominiamo in quanto tutti i giornali lo nominano. Poi, ovviamente, come può mancare una lettura del Manifesto, il quale ha sempre dei titoli originalissimi, e titola quest'anno con Povero Babbo, intendendo Babbo Natale con quattro Babbi Natali in copertina, appunto facendo capire che la crisi quest'anno ha influenzato tantissimo il nostro Natale e che ovviamente è un Natale che resta ricordiamo che Babbo Natale è l'1%. Ecco, come appunto dice il nostro Samuele, Babbo Natale è l'1%, perché effettivamente, se ci pensate, lavora una volta solo all'anno, schiavizza i poveri folletti, schiavizza i folletti male. E poi ogni tanto fa beneficenza, così per far capire. Ah no, attenzione, perché effettivamente, se ci pensate, in Ghana Babbo Natale non passa, manco, no. Cioè, passa solo nei paesi ricchi, è un po' molto razzista anche. Infatti, è l'1%. È l'1%. Lui rappresenta l'1%. Tutto quello che combattiamo, anche ecco. Se è vestito di rosso e assomiglia a Karl Marx. Esatto, è l'1%, anche perché l'immagine di Karl Marx, un po' cicciotto con la barba, gli ha data Coca-Cola. Lo sappiamo diciamo tutti. La verità, lo sappiamo tutti che è un frutto solo della Coca-Cola, quell'immagine tanto, tanto carina da nonno affezionato che poi non è. Allora, quindi è brutto con la gobba e assomiglia ad Andreotti. E allora, quindi finiamo un po' il nostro discorso serio, perché ogni tanto tocca pure fare discorsi seri, e parliamo di questa crisi che avanza e che nelle case ha lasciato un segno. Ovviamente ognuno oggi a Natale a Natale quest'anno non abbiamo trovato i soliti regali, quantomeno per i bambini. Ma in Val di Susa si è trovato delle letame. I nostri bravi cantieristi si sono ritrovati pacchi di letame come doni il 25 dicembre a notte. Pacchi di letame con scritte no tab. Come sempre. Meritati, quest'anno non cala carbone, quest'anno cala letame. Proprio siamo nella merda fino al collo, e non solo noi, questo va fatto capire. E come sempre abbiamo la nostra valle che resiste a questo sfruttamento del terreno, a questa speculazione su qualsiasi cosa, anche su un bene di tutti qual è la natura. E quindi adesso abbiamo appunto anche azioni natalizie, come sono state anche qui a Roma, ci sono state parecchie azioni natalizie che lasciano il segno e lasciano capire che, anche se è Natale, quindi in qualche modo si festeggia e ci si finge di essere ricchi, ci si regala delle cose, La crisi non si è fermata e ciò lo si vede nei negozi che hanno venduto di meno e in varie altre note, nelle case più vuote. Ma lo si vede alla stessa tavola della nostra nonna, che è meno imbandita di un tempo. Lo si vede nelle Caritas, che sono sempre più piene. Però a casa di nonna si mangia sempre tanto. Cioè, si mangia sempre scusate, tanto, però la lasagna, secondo me un pochetto di meno. La lasagna comunque riempie però, tanto. Però e io ti rimane di più sullo stomaco, perché non rimane, è roba di qualità. Ormai. Eh sì, rimane più sullo stomaco, proprio il latte si blocca tutto, tutto il grasso che solitamente però mandavi giù perché eri rincuorato, dici almeno c'ha un futuro, invece stavolta manco il futuro c'hai e te tocca correre, non solo correre perché toppamo pure a Natale per colpa di sta crisi. E non solo te tocca correre per perdere peso, ma te tocca correre, te tocca faticare perché per trovare lavoro quest'anno ce n'è per pochi. Quindi adesso mettiamo un'altra canzone sempre di Rino Gaetano, ormai vi ho promesso che vi avrei fatto una puntata monotematica su quest'artista e facciamo subito partire una canzone che è ti, non so come si pronuncia, forse è ti, non lo so, date voi un ritmo, comunque sono 4 T messe a fianco e adesso ascoltiamoci questa canzone un po' ilare. Metti. A te che sogni una stella ed un veliero, che ti portino su isole dal cielo più vero. A te che non sopporti la pazienza, abbandonarti alla più sfrenata continenza. A te che hai progettato un antifurto sicuro. A te che lotti sempre contro il muro. E quando la tua mente prende il volo t'accorgi che sei rimasto solo. A te che ascolti il mio disco forse sorridendo. Giuro che la stessa rabbia sto vivendo. Siamo sulla stessa barca, io e te. Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. A te che odi politici imbrillanti nati, che minimizzano i loro reati, disposti a mandar tutto a puttana pur di salvarsi la dignità mondana. Te che non ami i servi di partito, che ti chiedono il voto, un voto pulito. Partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri. A te che ascolti il mio disco, forse sorridendo. Giuro che la stessa rabbia sto vivendo. Siamo sulla stessa barca, io e te. Ecco, è volta al fine anche questa canzone e scusate, mi sono sbagliato, non era molto ilare, però mi hanno consigliato male questi ragazzi in redazione che fanno gli scherzi, mi dicono metti questa che è divertente, metti questa che è divertente, invece alla fine è questa un po' è questa cosa un po' melenza, un po' romantica, invece niente. Vabbè, torniamo un po' comunque a parlare di cose che ci confanno. Non siamo certo esperti musicali, ci piace solo divertirci un po' con la musica. Parliamo un po' di che cosa succederà in futuro, che cosa stanno facendo i media in questi momenti, perché non si sentono, perché non fanno mobilitazioni. C'è la gente che veramente ormai si ferma per strada, si fa questi grandi interrogativi. Dove sono finiti i medi? I medi ci sono, i medi si riuniscono ancora nelle loro assemblee, nei loro collettivi. Certo, è un momento un po' morto per il movimento. È un momento che, come al solito, la pausa natalizia. È un momento di riflessione, un momento in cui bisogna pensare. Certo, bisogna ragionare, bisogna fare un'analisi su quello che è stato fatto fino ad ora, ma bisogna anche andare avanti, perché quest'anno il problema non è stato nella prima parte dell'anno, come l'anno scorso, guarda sti maleducati, non è stato come l'anno scorso nella prima parte dell'anno con la riforma Gelmini. Quest'anno il problema si presenterà quando entrerà in atto la riforma di Monti, quando questa manovra la vedremo sulle buste paga dei nostri genitori, sulle pensioni dei nostri nonni, quando arriveremo all'università qui la vedremo. Quindi sarà nella seconda parte dell'anno che i metri torneranno più forti nelle piazze e tornerà il movimento. E quindi, come ha spiegato benissimo il nostro amico Samuele, i medi non sono scomparsi, non si sono estinti per un meteorite, di sicuro non li spaventano i Maya, stanno solo riflettendo un po' nelle assemblee e di sicuro nella seconda parte dell'anno torneranno più carichi che mai, perché il futuro gli verrà tagliato sempre di più. Nel frattempo, mentre aspettiamo che arrivi questa parte dell'anno, fammo quattro sarti su una canzone che merita di sicuro. Facciamo una bei quattro sarti su La Berta Filava, sempre del nostro Rino Gaetano. C'entra moltissimo, perché nelle più nuove si chiama Mio fratello è figlio unico e penso che... Ops, mi scuso, ma qui ho degli incompetenti assieme a me in radio. Solo io sono bravo. Ormai il biondo mi ha lasciato l'eredità e io sono diventato un mostro in quest'arte di fare il DJ radiofonico. A me non mi sembra. A parte gli scherzi, comunque, a parte tutto, appunto, abbiamo avuto un problema, abbiamo scelto la traccia sbagliata da scaricare e quindi in mezzo ci hanno infilato un'intervista a Rino Gaetano. Nel frattempo in regia, scusate, ma non riesco proprio a parlare. Scusate, ma la scuola pubblica purtroppo ci spinge a questo. Niente, non sappiamo più neanche parlare. Siamo analfabeti. Nel frattempo c'è qualcuno che sta accendendo una rissa perché è stato rotto un anello, e qualcuno che invece si diverte a fare scherzi, tipo ruttare mentre si va in onda, mentre un altro parla. Per l'informazione, è questo qui, questo ragazzo tanto ben educato che vi sta parlando, quello che rutta in trasmissione. Io che rutto? No, assolutamente no. Allora, sull'onda un po' di questo divertimento che gira in redazione, mancano solo 8 minuti alla fine della trasmissione. Manca 18. Sì, in realtà, appunto, quello, come ci ricorda Samuele, manca un po' quanto ci pare, perché le femministe, mi spiace dirvelo, oggi non ci saranno, e quindi noi ci siamo sentiti in dovere di portare una voce femminile all'interno della radio, almeno per oggi. Prego. Almeno per oggi. Avvicinati al microfono. Di ciao. Più forte, non te sei sentito. Ciao. Ecco, appunto. È un po' timida, però secondo me può sostituire per una volta le femministe. Comunque, appunto, rimarremo con voi ancora per una decina di minuti, massimo una ventina, perché comunque poi dovremmo lasciare il posto ad altri programmi. Okay. Nel frattempo, per aspettare questo tempo, mettiamo un'altra canzone. Indovinate di chi? Rino Gaetano. No, non di De André. No, di quell'altro. De Rino Gaetano, bravi, avete indovinato. Perfetto, e nel frattempo finite questa corsetta di 10 km che avete ancora il panettone qua, che è sulle cosce. Ed è finito tutto sulle cosce. E intanto rimanete sintonizzati sugli 87.9. Corri, che intanto sfiorivano le viole di Rino Gaetano. L'estate che veniva con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio, e tu crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Delle onde che danzavano sul mare a piedi nudi, come un sogno di follie venduto all'asta. Quella notte cominciava un po' perversa e mi offriva tre occasioni per amarti. E tu fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Ma che bello stare qui in redazione tranquillamente. Già le femministe a quest'ora sarebbero state dall'altra parte del vetro a bussarci e a dirci che erano quasi le 5. Ma noi comunque le vogliamo bene, fanno un ottimo programma. E intanto però continuate ad ascoltarvi questa bellissima canzone. Più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. Ma le femministe lo sanno che gli vogliamo bene, non diremmo mai cattiverie su di loro. Insomma, poi sono le nostre compagne di redazione, condividiamo una giornata di martedì radiofonica, quindi non vi preoccupate, non c'è nessun insulto verso di loro. Aspettavo te. Si lavora, si produce, si amministra, lo Stato, il comune si promette. vorrei aspettare. E purtroppo è finita anche questa canzone di Rino Gaetano. Quest'ora è passata, è volata proprio come niente fosse. Però forse ci possiamo rubicchiare qualche minuto senza, forse sì, dai, senza, nessuno ci dice niente, senza che nessuno lo sappia. Ecco, chiudendo, cerchiamo di chiudere questa trasmissione con classe. Figurate che classe noi poi, insomma. Noi in classe non ci siamo mai stati, noi rimaniamo sempre in cortile. Infatti bene, quindi mettiamo un'ultima canzone di Rino Gaetano, chiudiamo questa nostra puntata, cerchiamo, ancora non è chiusa questa puntata. E intanto vi ricordiamo che se non avete niente da fare a Capodanno, se volete passare una serata, una nottata piacevole, il conto alla rovescia, classico di Capodanno. E a costo basso, A costo basso, magari non tanto, ma comunque a sostegno della nostra radio. Ci sta il Capodanno al laboratorio Agrobax, a sostegno di Radio Onda Rossa. Certo, ovviamente. Se volete dare un senso così al vostro Capodanno, andate all'Agrobax. Esatto, ovviamente per sostenere la radio non ci sono solo queste feste ad Agrobax o in altri centri sociali, ma c'è il conto corrente postale, che non mi stancherò mai di ripeterlo, è 618-04001. Dovete interstarla a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56. E vi ricordo che potete comunque trovare sul sito i modi di contattarci qui in radio e comprare una maglietta di Radio Onda Rossa, bellissime. Io sono bellissime, ragazzi. Io ce sono bellissime. Noi ce le abbiamo. Io ce ne ho 5 come minimo, perché poi se mi si sporca. Abbiamo l'armadio di Paperino. Uguale, sempre tutti gli stessi vestiti. Oppure ogni giorno lo vediamo con la maglietta di Radio Onda Rossa. Io non so magari se ce n'è tante o se non si lava, però. In realtà non mi lavo, ma non glielo dite. Allora, comunque, per sostenere Radio Onda Rossa, vi ricordo che c'è anche La Scarceranda, un diario fatto in sostegno anche del carcere, non solo di Radio Onda Rossa, acquistabile sempre qui. Non in sostegno del carcere, dei carcerati. Dei carcerati, scusate, perché il carcere è differente. Vi ricordo, potete sempre chiamare qui in redazione per averla, oppure scrivere una mail alla a www.radio, scusate, sbaglio sempre, ondarossa@ondarossa.info, oppure andare sul sito www.ondarossa.info. Intanto, mentre aspettiamo queste trascorrere di pochi minuti, anzi ormai è finita, mettiamo la canzone celebre, proprio la canzone con la maiuscola, che è Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. E sempre. Gioca a Sanremo. agli 80, chi muore al lavoro. Ma il cielo è sempre più blu. Chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifutto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per me. Va sfumando via anche quest'ultima canzone. Niente, non riesce a parlare oggi. Sto proprio intoppato, mi fermo. È panettone, ci ha lasciato così il panettone. Ce l'ho ancora in bocca, infatti, mamma mia. È buono, Sapete come ho fatto. Stiamo a aprire un panettone qua in radio, eh. Poi, dimmi la verità. Tutti noi, l'ultimo pranzo e le ultime colazioni le stiamo a fare con gli avanzi che ha portato zia o nonna. È per forza, è regolare. Per forza. Cioè, il panettone, il pandoro, il pranzo si fa con la pasta avanzata. Scusate, la colazione con la soppressata non la fate voi. Cioè, una cosa bella pesante, no, perché la soppressata a colazione io non me la mangio. Perché, cioè, però, la zia cucina tanto da cena. Insomma, uno cucina per la cena di Natale, però non finisce mai. Allora tu, per non buttare la roba, la mattina ti svegli, sei già mezzo rincoglionita, la trovi lì nel frigo, che te guarda con gli occhi dolci, Che fa in tamangi? Che fa in tamangi? Sì, e così ti ritrovi con l'intoppo qua di prima mattina dell'avanzo della lasagna freddina. Ci sono più orari, tra il 25 e il 31 ci sono orari. Ma il 31 riavrete i vostri orari col capodanno della radio. Eh beh sì, assolutamente partecipate. Sei di mattina al cinoso. Partecipate tutti a questo capodanno della radio, anche un po' per stare in società, conoscersi, conoscere altra gente. E stare e sostenere la radio. Quindi adesso mettiamo un'altra canzone. Mettiamo altre due canzoni di Rino Gaetano. Così anche per festeggiare, per parlare, per fare qualcosa. Forse recuperiamo un po' tutti i minuti che non abbiamo mai fatto, visto che il radioteatro ci rosicchia sempre un po' quei 10 minuti. E quindi noi facciamo. E diciamo che anche il martedì autogestivo ce ne risucchia 5 o 6 tutti i giorni. Sì, diciamo che un po' siamo sempre risicati noi. Adesso ci facciamo una bella ora piena, vi sorbite altri 2-3 minuti di noi rompi sempre. Lasciamo così, noi siamo educati. In sospeso, sempre di noi rompi studenti auto-organizzati. Vi ricordo che comunque è una trasmissione condotta e creata da studenti medi, quindi tutti minorenni. Se volete partecipare con un vostro gruppo, se volete partecipare con il vostro gruppo musicale o con i vostri amici, scriveteci a rageonair@ondarossa.info oppure contattateci su Facebook, che ormai è un mezzo di comunicazione come il telefono. Trovateci come contatto Rage on Air, ci trovate, scriveteci se volete partecipare a una puntata, noi vi faremo sapere e quindi potrete appunto partecipare anche voi. E soprattutto adesso ricordatevi le donazioni al conto corrente della radio. Certo, conto corrente che vi ricordo è 618 04001. Ormai lo so quasi a memoria, però ogni tanto devo sbirciare il foglio, se no non me ne ricordo. Copi. Comunque, se ci volete fare uno squilletto perché vi piace la canzone che metteremo, oppure chiamare per dirci qualche cosa, per insultarci, esatto, anche per dirci che siamo dei cretini perché non siamo bravi, basta chiamare lo 06 49 17 50. Anche qui ho bisogno ancora di guardare il foglio, ma lo so quasi a memoria, non vi preoccupate. Chiamateci, fateci sapere un po' la vostra opinione e diteci se abbiamo sbagliato qualcosa. Intanto godetevi questa canzone, spendi, spandi e offendi. Le offendi a quel signore che consuma abitualmente una tazza di petrolio alle 5 del pomeriggio. Già due squilletti per questa canzone, dai, e così continuate. Soltanto un litro e in cambio ti do Cristina. Se vuoi la chiudo pure Polastero. Dai, e così con lo squilletto. Ma dammi un litro di oro nero. All'anno a moderno Don ecco che sfuma anche questa canzone, piano piano se ne va. E mentre appunto ascoltavamo questa canzone, oltre alle centinaia di squilletti che ci sono arrivati, è arrivato anche una lamentela, diciamo un commento a come è stata presentata la canzone Aida, come è stata analizzata la canzone Aida. Quindi sì, è caduta la linea e chi ha fatto la telefonata, siamo molto contenti, se saremmo molto contenti se richiamasse, se richiamasse, cioè, per aprire anche un dibattito. Però comunque diciamo che forse l'analisi che ha fatto il compagno della canzone Aida non era correttissima. Noi comunque crediamo che c'era un fondo di verità in quello che ha detto il nostro compagno di redazione, e quindi aspettiamo che comunque qualcuno ci spieghi dove ha sbagliato, perché poverino quasi quasi si mette a piangere perché non capisce perché ha sbagliato. Bello Francesco. Però noi comunque siamo in chiusura, abbiamo già sforato, mamma mia quanto è bello sforare, non l'avremmo mai potuto fare con le femministe. Salutiamole se stanno a casa, salutiamo, e ci ascoltano. Sono tante brave, gli vogliamo tanto, tanto bene, brave, sono sì, delle sì, ottime compagne di redazione. Salutiamo le femministe che poverine non sappiamo perché non sono potute venire oggi. Mentre aspettiamo comunque di riaprire questo dibattito, siamo quasi in chiusura. E chiudiamo con una delle canzoni più belle di Rino Gaetano, Ti scriverò. Cerco un mondo diverso, con stelle al neon e un poco d'universo, e mi sento un eroe a tempo perso. Io scriverò, se vuoi, perché non ho incontrato mai veri mattatori e veri ombrellari. Di certo non volevamo attaccare il nostro compagno che ha fatto la descrizione di Aida. Poverino. Ammettiamo che potrebbe aver sbagliato l'analisi, ma vorremmo saperne di più. Di certo non lo diciamo, non ne abbiamo le conoscenze. Vabbè, comunque continuiamo la nostra trasmissione con sottofondo Io scriverò di e con Gaetano. 17 minuti di ritardo, quanto è bello. Direi che tra un po' però chiudiamo, perché io dovrei anche andare a casa. C'ho fame, lo sapete? Dobbiamo ancora finire la cena di Natale. So proprio un grasso, c'ho ancora fame. Dai, lascio spazio alla canzone, scusate, sto offendendo Rino. Ma con chiunque sappia di

dice pistole. Pubblica, like e solidale, noi la vogliamo. Pubblica, like e solidale, a questi gli andrà male. Finché ci siamo noi la scuola sarà sempre pubblica, like e solidale. Sì, e io l'afferro il senso, lo afferro pezzo a pezzo. E leva il crocifisso e il minuto di silenzio. Finché ci siamo noi, a questi gli andrà male. La scuola sarà sempre ricca, like e solidale. E per stavolta abbiamo chiuso per davvero. Un ultimo saluto prima di lasciarvi al programma automatico di riproduzione e poi vi salutiamo ultimamente, proprio ormai sono le 5:25 e facciamo l'ultimo proprio saluto e adesso vi lasciamo. Scusate se lui non ha detto una cosa giusta su Aida. Comunque ne riparleremo magari la prossima puntata di questa cosa di Aida. E allora vi saluto e vi lascio all'automatico.